Aiù, aiù, ci siamo? Io ci sono, poi non ho sogliato. Ciao già. E beh, come va? Ciao, solito. Al solito. Radio già, radio, radio. Ma vai al massimo, giù, non lo so cosa sta succedendo, perché non mi senti. Allora aspetta che lo metto io, dai. Ce l'ho qua. Ecco qua, così dovrebbe andare lì. Vai. È strano, perché questo microfono esce forte, se non è che c'è la batteria scarica. Boh, questo non lo so. Comunque andiamo bene adesso, dai. Ho aumentato io. Che strano. Questa batteria di campo che vuole cambiare, la compro nuova adesso. No, già va bene così, così già va bene, non lo so questo. Tanto mi guarda. Cosa te ne frega? Già va bene, già va bene. No, perché c'è che me lo fanno abbassare, quello che è troppo forte. Daniele ieri me l'hanno fatto abbassare, che era troppo forte. No, non è niente forte. Solo quando metti l'eco è che è un po' fastidioso. Perché con l'eco dà la sensazione che la voce stia arrivando da lontano. Forte, molto forte. E appunto proprio per quello è che è un po' secondo me fastidioso. Ma così già va bene, come si è adesso va benissimo. Guarda adesso! Va bene già, va bene, ti ho detto, anche poco. Questo così senza eco. Va meglio. Ma io sinceramente la preferisco, poi ognuno ha i suoi usi, per me va meglio sì, perché non c'è quell'effetto cattedrale, capisci? E dunque secondo me va meglio, poi ognuno di noi, non lo sai, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. E io sempre cruda gliela posso dare. Tu come gliela vuoi dare, cruda? Come diceva bene tu, solo cruda gliela posso dare. Vabbè, allora, dai, era cruda, che cosa volete dire? La digerisco lo stesso. Come diceva, che gli amici si vedono al momento del bisogno, si attaccava a tutte le fotografie degli amici del comodo. Vabbè, comunque, già va bene così. Oggi sono tutti in ritardo, sono già quasi le 7, grazie, sono le 5, e tutti in ritardo sono. Io sto timbrando adesso. Volte sono andato sul 45 per vedere se erano lì, non ci sono, e ho fatto un giro, non c'è nessuno. Io ho timbrato adesso. Ah, manco un arrivi. Ciao Daniele. Buonasera, ciao Giulio, ciao Gianni. Allora Daniele, e te mi conta già? Niente, qua siamo. E va bene. No, 45 non c'è propagazione adesso, stamattina c'era. Oh, e mai la mattina manco ne accendo, perché faccio commissioni, faccio pure di tutto, quindi non è stato nemmeno. Kappa. No, mi sono fatto due passaggi stamattina, sin quando ha durato. E poi è finita la pacchia. Aspettato, va bene. Riprendi Giulio. Ok, ciao Daniele. Sì, anch'io stamattina sono andato in giro, così trascorri le ore meglio, non è che puoi stare tutto il giorno attaccato al baracchino, va bene la sera, va benissimo, sì, comunque già è capitato che anche di mattina abbiamo modulato, anche qualche giorno fa, per cui va bene lo stesso, però di solito c'è poca gente la mattina, anzi non c'è nessuno quasi, e allora è meglio rimandare alla serata. No, poi mi stufa, se sto sempre attaccato al macchino, poi mi stufa alla fine, capito? Devo per forza andarci la sera solo, perché sennò poi mi stufo. Certo, non è che uno può stare tutto il giorno attaccato al baracchino, ci mancherebbe, certo. Finché magari la giornata è brutta, piove, eccetera, non si può uscire, o meglio non ne vale la pena uscire, allora può anche passare. Ma quando la giornata è bella, come quella di oggi, come fai a stare tutto il giorno attaccato al baracchino? Uno va, ci sono quattro parte, io la penso così. Avanti Daniele. Kappa. Va bene. No, io che stamattina ero da solo e quindi ho approfittato. Sono fatto due passaggi, poi sono andato a fare le commissioni. E poi era sempre acceso, la verità sicca. Io lo accendo la mattina e lo spengo la notte. E poi sono venuto a voi e sono entrato. Va bene così. Chi è che voleva entrare? Avanti, c'era qualcuno che vuole entrare? No, va bene, dai. Perché ho sentito l'innesco insieme alla tua portante, Daniele. Vuol dire che qualcuno magari sarà da fuori. Anda bene, anda bene. E allora già, questa gamba sta guarendo? Sì, insomma, così si è migliorato un po', ma il dolore ce l'ho sempre, forte. Non mi posso inchinare, quando mi inchino la devo tenere dritta e inchinarmi con la schiena, non posso piegare il ginocchio. Ho capito. Ma allora non è questione di sciatica quello, no? Quello è qualche problemino al ginocchio. Avanti, buonasera, cordialità anche a te, la stazione doppio lungo, la stazione Daniele e la stazione Giulio Lollar, avanti per chi vuoi. Non sento. Chi hai già? Ma mi sembra l'amico che viene dalla Svizzera sempre, ogni anno, aspetta un attimino, mi sa che lui Joker mi pare. Ah, Lupo Grigio dei Cappuccini, mi hai sentito Lupo Grigio? No, mi sembrava il Joker quello che viene, che è sassarese, però è abita tanti anni in Svizzera. Lupo Grigio, lo sentite? Ciao Lupo Grigio, ben sentito, dai, pio pio ti tiro fuori, dai. Daniele da questa parte ti cordializza. Riprendi Giulio. Ok, io lo saluto a Lupo Grigio, però qua non arriva. Non arriva, completamente silenzio, per cui non so cosa dirti. Lupo Grigio, non ti sento, mi dispiace. Vai già. Lupo Grigio, mettiti l'antenna esterna. Ma lui mi passa lo stesso, io ho le batterie scariche, non lo so. O ti fa una frazione come si deve, ti decidi e ti metti tutto quanto nuovo e così sei a posto. Capo, perché qua ti sentiamo in due, ma malapena, anch'io ti sento molto basso. Giulio non ti ascolta da lì punti, Daniele ti ascolta basso lo stesso. Daniele, vai per il Lupo Grigio. Io so, c'è gente al 23. Anche con l'87 appena di battimento lo sento, ma meno del 48 comunque. Se parlano mi tappano al lupo. Io non lo sento proprio. Attento lupo, prova a parlare se ti sento adesso, vediamo un po' se riesci ad arrivare almeno se non altro per capire quello che dici. Vai lupo, niente già, niente. Niente, non ti ascolta, non ti ascolta lupo grigio. Ma cosa sta usando? Qualche portatilino? Capo. È un portatile che gli hanno regalato al compleanno dei figli quando hanno compiuto 60 anni. Certo, allora, è proprio un portatilino veramente. O è scarico di batterie, e certo, ma è 60 anni questo qui, ma dove sei? Dentro casa, quando vieni, strada, com'è? Chiedilo. Ma i cappuccini è dentro casa. E dite di affacciarsi la finestra, un po' grigio. Io c'ho Claudio da qualche parte. Ma chi è che ti sta spaccando? Claudio oppure gli altri? Perché sono gli altri, vuol dire che sono attaccati, che sono lontani da te. Claudio Claudio, non rompere, spostati su 10. Ma io mi siamo terremoto. Ma l'ho messo quello che era adesso, il 23. No, c'è gente sul 23, Claudio era sul 12-14, boh. Claudio, basta su Ludesi, Claudio, traditore, passa su 10. Ecco. Avanti, ma ci vediamo, buonasera. Ciao Giulio, buonasera e ben ascoltato. Ciao anche a Daniele, poi chi c'è che non l'ho fatto ascolto? C'è già il doppio lupo e basta, poi c'è questo lupo grigio mi sembra che ha detto, però io non lo sento qua, non so se lo senti tu, proviamo lupo grigio, prova a parlare se ti sente Massimiliano. No, ho già provato tante volte, non lo sento. Allora sì, come me. Dunque, siamo lì. E allora Massimiliano? Mi ha appena fatto la doccia, ciao Gianni doppio. Appena sdocciato e ci stiamo bevendo un goccettino di biberone qua. fresca fresca, e niente, le donne sono a scuola di ballo, quindi ci siamo seduti a fare due chiacchiere, là. Ok, avanti Daniel. Campanero, metro, ciao Massimiliano, ben ascoltato, dai. Allora, scaricata abbiamo oggi. Ah, visto il video che ti ho mandato. Che figata, raga. Quelli già si arrampicano, sì. Ah, io a giocare col fuoristrada lì. Quello si arrampica più del fuoristrada, Più bello, più bello, più divertente. Gappa, già si diverte, che ti tocca la schiena tutto il giorno lì dentro. Che è un bel molleggiato, capito? E poi snodato. Gappa Roger, avanti Gianni. Ciao Massimiliano, sentito, dai. Ma che cosa stai dicendo? Carrapilla. Eia, Damper. Gappa. Fai col carro, deve essere brutto, no, lasci dentro. In cabina c'è la carro. E io ce l'ho condizionata, già abbassa leggermente l'eco. Guarda bene. Era troppo alto. No, non ce n'è caldo, anzi. Diciamo che vabbè, dalle 8:30 la manica è corta, Poi un goccettino di aria condizionata. E io si lavora bene, no. Ma mica ci picchiava il sole, il campo era proprio bruciato. C'era caldo, però dove ero io c'era anche un po' di vento che ti aiutava, no? Giulio, che non ha un po' che non ti sentivo. Ho chiesto un po' di informazioni a Claudio. Ok, sì, ma svegliare, ero assente per un po' di giorni, perché ero recuperato, dunque. Adesso sono rientrato ed eccomi qua. Va bene, è importante che sia tutto capa brioche, là. Credo di sì, credo. Poi non lo so, sto aspettando l'esito finale che mi daranno fra un po' di giorni e poi vedremo. Non so cosa dire, Massimo, io me lo auguro, perché cosa vuoi che dica? Fisicamente sto bene, non sento niente, non ho dolore, non ho niente, mi sento abbastanza bene. Però c'è un esito appunto da sapere, che mi comunicheranno fra un po', non so quando, però diciamo che sono in attesa, dai. Va bene, piano piano, perché babbo era all'ultimo stadio, invece si è bloccato dove c'era lì. Si è fermato lì e grazie a Dio ogni 6 mesi va a controllo e tutto a posto. Ok, vabbè, dai. È così la vita, e cosa ci vuoi fare? Alle volte è più storta che dritta la vita. La gioventù non vuole mai perduta, e sarebbe stato sempre bello avere il vigore fisico e soprattutto la salute dei 20 anni, quanto sarebbe bello. Invece quando comincia a essere anziano, allora gli acciacchi, si sa, prima o poi arrivano. Va bene, sopportiamo. Avanti Daniele. Capo di Rosmetro! Sei a posto. Non sento più a Claudio, cavolo, mi stava distruggendo, mi stava. E come mai? Non lo so, lo stavo usando a potenza. Era al 12 o al 14, È strano, perché in genere quella non la prende colpi. E infatti, c'è la gente al 23, tranquillo. Ma si sentiva Claudio sotto fischiare facendo. Siamo anche abbastanza vicini con Claudio in linea d'aria. Cosa pretendi? Un pochino lo senti, là. Però almeno ti fa parlare, ti fa ascoltare. Quello sì, meglio del 48 lo è, ma non di poco, no, di un bel. No, già stacchi il 48 lo favi di più. Sì, se ho 48 avrei spento tutto, ma c'è bene, ci sentiamo più tardi. Così, 48... Sono così di vizio, là. Avanti, doppio. Aspetta che mi assento 2 secondi, vado a sistemare il televisore al bambino, aspetta. I 40 sono nati per mettere in vettura o in camion. Da quando ci sono, infatti li hanno fatti robusti con apparecchi proprio per quello. Perché li usavano i camionisti e qualcuno in vettura lo metteva. In casa il 48 tutto è negato. E poi il bello, sai che cos'è già? Che il 48, anche se è è una bella radio, capito? È piccola, la mettiamo per voi, si fa fare quello che vuole, che poi come per le modifiche, roba del genere sto parlando. Però purtroppo c'è questa cosa che non è selettivo e piglia un medicoide. Bisognerebbe trovare l'inghippo, come fare per non prendere colpi. Mi pare che a Gigino gli avevano fatto i fili, avevano messo dei fili particolari per non prendere gli splatter. Ma è una cosa particolare. Puoi mettere i fili che vuoi, il 48 piglia goite, buh. No, non c'è niente da fare. Avanti, Giulio. Ok, Massimo, vediamo. Sarebbe stata una bella radiolina se fosse stato un pochino più filtrato. Filtrato meglio, da non prendere tutti quegli splatter o quei colpi, insomma. Vabbè, comunque. Però diciamo che è l'ideale per la macchina, perché è robusta, come radiolina è molto robusta e difficilmente si ferma. E poi il fatto che prende colpi lo sappiamo, perché a casa è ovvio, però quando sei in giro con la macchina, col camion, va bene ugualmente, no? Problemi non ce ne sono, certo. E vabbè, dai. Daniele si è allontanato un attimino, vediamo un po', e ti faccio a te o Gianni, vai. Sono, diciamo, delle belle radio, sì. E poi è una delle poche radio che è stata fabbricata anni fa e ha sempre durato come vendita, come tutto. Sempre è stata il top delle vendite. Il top delle modifiche anche. Papà, da quanti anni c'è il 48? Io mi ricordo che ero ragazzino da quando c'è. Ma adesso già è uscito anche il modello nuovo, capito? È uscito anche il modello nuovo, lascia perdere il BSX, ma è uscito un altro modello ancora, che al posto di avere la scritta Midland Alan 48, c'è scritto Alan 48 direttamente in lettere, là. Ah, ecco, e cosa cambia? C'è qualcosa di diverso? E dentro è fatto tipo il BSX. Non vale niente allora. Io ho avuto il BSX, mi è durato un'altra a Santo Stefano, Massimiliano, era quello modificato che usciva con le coccolte, eccetera, eccetera. Già dalla fabbrica, già modificato così da loro. Mi è durato poco tempo, poi non si accendeva più. Gava, e le radio migliori sono quelle vecchie, come quella di Daniele, vero Daniele? E si conferma, io stamattina ero sul 45, ho fatto un paio di collegamenti, 50 ha durato la propagazione, e già funge. Sei riuscito a collegare? K di Rosmetro, non mi ricordo chi, però già andava bene. E adesso quando si apre bene la propagazione, adesso sta appena iniziando, quando si apre bene, a volte fai molto questione a solo radio, senza scarpette e niente. Stavo arrivando furti, 7, 9, cavolo, bei segnali, Cava, anda bene, avanti giù. Ok, ma si vedrà. Ma ieri sera proprio, non sono riuscito ad ascoltare nessuno, andavo fuori dalla propagazione. Infatti ho fatto una puntatina sul 27540 e dunque ho chiamato i francesi, mi hanno risposto, ma purtroppo non ho potuto fare qualche ora, avevo fuori dei saluti con loro perché non capivo l'accidente, quello che dicevano. Io non so picchiare il francese, per cui, e allora ho smesso. Diciamo che ho chiuso anzitempo, poi se qualcuno di stanza io è entrato, questo non lo so, non te lo so dire, però no, io su 10 perlomeno non c'era nessuno, allora sono passato sui canali alti, sono passato e ho incontrato questo questione francese, ho fatto chiamata, mi hanno risposto subito alla prima chiamata, ma poi purtroppo mi sono fatto capire in qualche maniera, usando il codice Q, proprio per i saluti, ma niente di più. Io ho dovuto rinunciarci perché non capivo quello che mi diceva. Purtroppo così. Vai Gianni. me piace il francese invece. Io un po' l'ho imparato perché i cugini di mia moglie quando venivano dalla Francia sapevano parlare solo il francese, se non li parlavi il francese se ne stavano in un angolo e non se ne stavano così, capito, si trovavano male. Allora per forza devi cercare di imparare, loro hanno cercato di imparare l'italiano e non il francese. Io lo parlo, Sì, anche io, diciamo, ho le basi della scuola. No, io parlo sia francese che inglese, o Giulio. Però mi devo bere una cassa di birra prima. Poi parli anche cinese, come? Sì, poi anche cinese, giapponese. Poliglota li inventa. Guarda, io l'unica lingua che so parlare un po' bene, l'algherese, perché mia mamma era di Alghero, l'algherese lo parlo comunque, so affrontare i discorsi, lo capisco tutto. Vabbè, l'usa sarriso, il sardo, idem, perché il sardo, mio padre parla il sardo, anche io voglio parlare il sardo. Anche si attalla, meglio. Invece. Da voto come Elia. No, io no, e tu? No, manco Baregani. Quindi, diciamo che io con mia mamma mi divertivo tanto, dai, a parlare l'algherese. E non è facile l'algherese, ciao Claudio. Sì, vabbè, che mamma, tutte le sorelle e i parenti l'algherese, quindi è chiaro, già l'ho fatto. Mi arrangio. Buonasera a tutti, sono andato a salutare e basta, dai. Divertitevi, là, che io sto uscendo di nuovo. Ciao, Claudio. Ciao, poc'anzi ti ha detto, la vittoria viene sul canale 10, così, scherzando, ho detto, perché stavi ammazzando a Daniele. Allora ho gridato, Claudio, traditore, passa sul canale 10. Naturalmente stavo scherzando, ci mancherebbe altro. Capito qua. Sì, ma tu hai preso una baglia forte, perché io nel canale 23 non ero nel canale 23 e la radio l'ho accesa adesso, quindi hai preso un granchio. Io a Daniele non lo splattero, sono quelli del canale 23 che lo splatterano, che vanno tutti i baracchini, uno vi manda a fanculo all'altro. Io non lo splattero a Daniele, assolutamente, abbiamo già fatto le prove, eppure non ero io. Lo sai che io non ci parlo nel canale 23, ma non perché no, ho qualcosa con qualcuno, non ci parlo perché io sono qua nel canale 10 e sono sempre rimasto nel canale 10. Uè, ciao Cla, no, tra il 12 e il 14 c'era qualcuno, sta facendo ora fischiare, tipo ma che cosa, sta facendo prove. Mi sembra V2, però non so, in AM non c'è, in FM non eri, boh, non so dove cavolo fosse. Già era lui, Fendi capo di Bugnetta, va. Vabbè, Fendi, come ti, non mi vedi di parolacci, come ti vibbiate? Ti ho detto che io ho acceso la radio adesso, anzi la radio è accesa la stamattina, ha capito? Ho tirato sui volumi adesso e vi ho sentito, perché tutta la sera che non c'era nessuno. Comunque non ero io, non ho bisogno di fare ola ola, perché io provo non devo fare, so già che esco bene, quindi non mi interessa fare prova. Ciao a tutti, divertitevela, ola ola, si sciugate, beh. Fa poco uno ammazza da niente, non vengo manco a casa, dai. Va bene, ciao. Ascolta, tu cosa sei, Mark Caltagirone? No, sono Mark e boh. No, ma stavamo scherzando, io non ti ho sentito, io da qui non mi sono mosso. Io, cioè, c'era il dubbio che magari eri tu che stavi splatterando a Daniele, niente di più, questo è quello che ha detto Daniele, poi, non è, poi se c'è io o non c'è io, questo non lo posso sapere, ma io ho fatto una battuta e basta, perché tanto lo so che dal 10 non ti muovi, già lo so, anche perché tu sei vincolato a vita sul canale 10, e per cui già lo sappiamo che solo qua ti troviamo, però era solo una battuta che ho voluto fare, capisci qua? Vabbè, ma che te ne sei andati avanti, vuoi sapere, ma insomma, non si fa in compagnia. No, devo uscire, devo andare a prendere la balaccona e poi vado a portare il campo. No, ma con questi errori ci sono già passato, no? Alla fine la pecorella ero sempre io, quindi evitate di fare il mio nome se non siete sicuri che fosse meglio. Va bene, ok, dai, ci sentiamo, statemi bene. Vai, ti confermi, va. Ciao Cla, buon proseguimento di serata, dai, riprendi Gianni. Niente, ci mancherebbe altro, figurati. ok, ciao, alla prossima. Vai, Gianni. Ciao Flavio, buona passeggiata. Avanti, Massimiliano. Cava, vai, vai, che governi, vai, sulla radio, vai. Evitate di fare il mio nome, cazzo, ma è il re cazzo della bicicletta, quasi dice. Avanti, Daniele. Cava, dai, Cla, sentiamo dopo se coincide, buon proseguimento. Cava, il rosmetro, va bene. Io non mi faccio da mimmola. Ma vai, così, a dei mesi se ne è andato. No, che poi non lo sento io a cosa di fare i canali, ma era uno e non sapevo neanche dove cavolo fosse, ma non c'era, FM non c'era, aveva un segnalone il cavolo. Ma non ti sblattera Claudio, se le prove le avete già fatte, Daniele, sei stato tu stesso a dire che a lui non lo senti proprio, anche se ti sposti di uno o due canali. Può darsi che era qualcuno anche vicino a lui provando qualche radio. E infatti ha detto, che è strano. Al 23 c'era gente, perché sono andato al 23 c'era gente. E poi sentivo questa cosa strana, non lo so che cavolo fosse. Va bene, già non è successo nulla. Chiappa Roggero, va bene. Datemi due secondi che io devo scendere nel piano di sotto. Mamma mia, queste scale ne faccio 200 volte alla mia. Tu 200, io 300 volte alla mia. E sono fatto da giù, da sotto, da seminterrato, fatto. E lo posso 300 volte alla mia. Va bene, dai, ma se ne stiamo qua. Ti aspettiamo tranquillamente, senza nessun problema. E naturalmente aspettiamo che tu rientri. Va bene. Avanti Gianni. Guarda che ti fa bene fare le scale, che sei tutto il giorno abusato. E si deve essere spostato. No, quello già è vero, visto considerato il lavoro che fa. Hai ragione già, hai detto bene. Muoversi un po' già fa bene, quello è vero. Ma i movimenti già ne fa di altro tipo lui, per cui, perché non è che solamente il fatto di stare seduto. È tutta la leva che deve muovere continuamente, ogni due secondi, per cui già si muove ugualmente, certo, ci mancherebbe, e tu sì che sia travaglio. Vai Daniele. Cava. E va bene, aspetto di trovare una cosa qua. Daniele Gubinetta, va tu puro, sta bobo. E va bene, dai. Gianni, al momento il più assidui in questo canale siamo noi due. Al momento. Non lo dire due volte che io fra poco me ne vado a lontanare, che ore sono? Sono già le 7:30, ma è alle 8. Alle 8 qua. Portare giù il cane. Anche se non aggiornisce una gara, ma dovrebbe arrivare un pacco, cazzo, lo sto aspettando, c'è scritto entro le 8. Consegna entro le 8, non fanno mai, prima la consegnavano così tanto. Ma non te lo so dire questo, già beh, se stanno detto così arriveranno. Sono già le 7:22 minuti, per cui ancora c'è del tempo. Se hanno detto verso le 8 saranno puntuali, che lo sa, anche loro è chiaro che devono fare il giro e evidentemente hanno preventivato che da te arrivano verso le 8. Allora attendi con pazienza e così riceverai. Riprendi già. Non verso, entro le 8. Capito? Entro le 8 consegnano. Se non è 8 poi non consegnano più. Oggi è consegna, capito? E non è un computer, quindi non è una cosa buffonata. Ma che corriere è? Non lo so che corriere è. Perché lui ve l'aveva fatto mio figlio e l'ha mandato qua a casa, capito? Ma tracciabilità non è di questo pacco. Entro le 6 già. Perché è già troppo tardi alle 6, perché alle 6 scendono già in capannone secondo chi è. In genere i corrieri lavorano fino alle 6, poi non lavorano più, non consegnano più. Si conferma. Si vede che ha trovato lo spedizioniere, è un corriere capace di straordinario. Gianni, ti tiene in considerazione, fagli straordinario per te quello. Io, e sentirà come ti piace. Cioè, se quello l'orario è quello. Mi ha detto che entro le 8 arriva. Così ha letto lui sotto e così mi sto dicendo. Ma speriamo che arrivi, dai. se no mi tocca stare a casa Mudumà. Ma allora è passato e non ti ha trovato? Avrebbe lasciato l'avviso. Gava. Anche tu. Dani, guarda, se devi parlare per la selezione del pacco, stai tranquillo che arriva. Sembra che hai già pagato, forse che rimandi là domani. È già pagato. E allora sei buttito. Ciao, no, ma che ne arriva. Già arriva, bellai. Domani ormai glielo consegnalo. Boh, ne hai preso Gianni. No, io non c'ho problemi. Ho fatto arrivare qui perché... così sono sicuro che ci sono, capito? Quindi, se arriva, arriva, se no, non è che mi voglio una bella. Oh già, quanti anni ha adesso tuo figlio? 18. Cazzo che grande, Isuga. 18, il quarto scientifico. Isuga, sulla creatura, non te la metti, no? Sulla creatura. Quando parlava alla macchina. Isuga. Passa il tempo, meglio che passi, Massimiliano. Meglio che passi. È anche molto bravo a scuola. Grazie a Dio li ho avuti tutti e due molto bravi a scuola, non mi hanno dato problemi. Meglio che le piace la scuola, una cosa buona. Direi ottima decisione, studiare, perché è giusto che sia così, per potersi creare anche un futuro. Ce lo credo già. Allora ti puoi considerare fortunato, perché non sono tutti i ragazzi oggi che hanno voglia di studiare. Dunque, se loro sono bravi, se le piace lo studio, sacrificati, lasciali fare, lasciali studiare, dunque va bene così, c'è da apprezzare i ragazzi quando hanno questa buona volontà. No, cioè adesso ho dato anche la laurea per la specialistica, ma non era con 110 all'ora, è passata, capito? E ha trovato subito lavoro lì a Bologna, e la stanno chiamando a tutte le parti, ha presentato il curriculum, la stanno chiamando a tutte le parti. E di che cosa già però? Scienze dell'educazione, lei può fare direttrice di tanti posti di carceri, di comunità, tutte queste cose qua, oppure può fare anche educatrice a domicilio, tipo quando ci sono bambini difficili nelle famiglie, o che ci sono famiglie particolari, capito? Buono, vabbè. E intanto già è meglio la laurea, perché adesso il diploma è come che c'è la terza media. Sì, ma mamma la sera già laureata qua a Sassari, poi è andata a Bologna e ha preso la specialistica, capito? E tutte e due le lauree ha preso 110 lodi, quindi cosa li vuoi dire? Come ha presentato il curriculum, le ha presentate prima di laurearsi la seconda volta. E non l'avevano già chiamata prima di laurearsi, infatti lo conto. Buona, una cosa buona già, lo studio al giorno d'oggi ci vuole, è inutile. Cioè, perlomeno io parlo per me, io vedo, ho studiato, sono da bambino 12 anni, grazie, gioco sempre travagliente, e quindi no, però, sai, a me lo studio non mi piaceva, quindi ho mollato, cioè mio padre mi ha fatto mollare subito. Mi ha detto a te la scuola non ti piace, io ho le scarpe grosse e a lavorare. Prima era così, adesso uno spinge il figlio sempre a fare di meglio, no? Beh, certo. E vabbè. E la vita li vede anche più facile, perché ha detto bene quel politico l'altro giorno, mi ricordo chi era. Ha detto, non è vero che non c'è lavoro, non ci sono persone specializzate, perché se uno ha la specializzazione, la laurea e queste cose, il lavoro lo trova. Il problema è che le persone sono così tutte generiche, quasi tutte generiche, le persone che non trovano il lavoro. Già a volte però c'è da dire un'altra cosa, che non danno anche la possibilità a chi non è laureato di lavorare, c'è da dire anche questo. Sì, appunto, la gente, per dire, ma noi l'ha presentato tutti i curriculum, quando questa cooperativa che si interessa, gli hanno dato diversi di lavori, ne sta facendo due o tre, non uno, no, due o tre ne sta facendo. E in una casa che sta seguendo un bambino autistico, in una comunità dove ci sono ragazze e madri con i figli, e poi anche si dice che all'inizio ti guardano un po' male, cosa, perché sono ragazze e madri che li volevano prendere il bambino perché la situazione dei familiari strane, capito? Invece cerca di capire il problema, di dare consigli, eccetera, eccetera, queste cose qua. Però potrebbe fare molto di più, potrebbe diventare direttrice dell'istituto addirittura. È una cosa buona quella, va. Gappa, gappa, avanti, Giulio. Ok, beh, certo, lo studio ci vuole. Non è più come una volta, quando eravamo ragazzi noi, era diverso. Ma oggi lo studio è fondamentale. Se vuoi lavorare, devi avere un titolo di studio, una laurea, soprattutto. Perché anche, anche il diploma oggi vale poco. Per cui è meglio prendere sempre la laurea. Ma io ho già un nipote a Bologna, fa giornalista. E sta continuando a studiare, se vuole prendere un'altra laurea, è già laureato, però ne vuole prendere anche un'altra, per cui vedi bene, lasciamole fare, quando i ragazzi hanno buonissima volontà è meglio aiutarli, sì, lo so, i genitori fanno tanti sacrifici perché i libri costano. Io mi ricordo quando mia figlia si stava laureando, era all'università, c'erano certe materie, quasi tutte, ci volevano tre volumi come minimo e ogni volume costava intorno ai 350-400 lire, per cui diciamo che sono soddisfattissimo, così almeno ormai è grande, tranquillamente, è una professionista, lavora per conto suo e va bene così. Io devo dire che mia figlia non mi ha mai deluso nello studio, perché ha incominciato dagli elementari fino alla laurea, non è stata mai rimandata. Si è laureata col massimo dei gusti, per cui ti puoi immaginare già. Va bene così, è una grande soddisfazione per i genitori quella, eh? Va bene. Avanti Massimiliano. Sì, rilancio a Daniele, vai Daniele. Riprendo io, dai. Marco vuol fare la stessa cosa, vuol partire a Bologna a studiare. Ha detto, papà, io voglio partire a Bologna. E vai a Bologna. Figlio, che cosa devi fare? Tanto qua non c'è sbocco, non c'è nulla. Una volta che si diploma, va all'università a Bologna. Anche lui. Ma Manuela, Giulio, ti dico la verità, mi ha dato poche spese e cose, io vabbè l'aiuto lo stesso perché vive fuori, quindi normalmente l'aiuto, però lei ha sempre preso borse di studio a tutto andare, 1500 euro a borsa di studio prendeva, quindi si aiutava anche lì, poi si faceva dei lavoriti, si è data molto a fare, non ha dato molti problemi. Quello è buono, anche mia figlia ne ha avuto diverse borse di studio, per cui anche lei ha qualche cosina gli ha guadagnata, però non bastava, tu pensa, mia figlia 36 esami più la tesi, che non è poco, 36 esami sono lunghi, e incominciato a moltiplicare 36 il minimo di massima per 3 ogni volume, in certe materie anche 4 ce ne volevano, a 350.000 lire o a 400 o a volume, e poi fai il conto e sai cosa è costato. Ma oggi, grazie a Dio, sono soddisfattissimo, perché anzi la soddisfazione più grande mia è proprio quella, il fatto che mia figlia sia laureata, che lavora tranquillamente, professionista, lavora in proprio, lavora per tutta la Sardegna, e insomma va bene così, guadagna discretamente, per non dire bene, per cui sono contentissimo, più di quello che ho fatto io, nel senso magari riferendomi alla casa, o meglio alle case, al magazzino, e anche alla posizione in banca, eccetera, eccetera. La soddisfazione importante per me, io l'ho sempre detto e continuo a dirlo, per me è quello di essere un padre fortunato, perché mia figlia si è laureata in modo che si possa anche difendere da sola nell'avvenire, ecco tutto lì, ecco cosa intendevo dire io. Poi tutto il resto, quello che ho fatto io, e queste sono tutte cose della famiglia, è chiaro, però quello che doveva arrivare era proprio quello, la laurea, per potersi fare una posizione che ce l'ha fatta e ce la sta continuando a fare, grazie a Dio, alla grande veramente. Avanti Massimiliano. Dai, scusate, riprendere, mi assento 10 minuti, arrivo subito, dai. Sì, è così, Giulio, la soddisfazione di un figlio è quella, alla fine. Cioè adesso lì lavora in proprio, si guadagna i suoi soldini, si può comprare un esempio un appartamento, cioè può lavorare magari a casa, non c'è bisogno di avere uno studio, si fa una camera da studio. E la soddisfazione per un padre e una madre è quella. Vedere i figli che si sono sistemati, normale. Cosa ce l'ha che gliel'ha fatto Giulio, vero Giulio? Sì, lo studio ce l'ha, oltre al fatto che ce l'ha anche a casa. Lavora a casa, lavora anche quando deve fare delle riunioni con colleghi, eccetera. Anzi, se porta di qua, se porta di studio. Io la falegnameria l'ho travesata, ho fatto, poi ho fatto lo studio, per cui anche lì è tranquilla. Poi tra l'altro tutto quello che era di mia proprietà l'ho tutto interessato a lei, che mi si è considerato che è l'unica figlia che ho, la prima mia volta, sarebbe stata anche più grande di me, sarebbe stata. E dunque così nemmeno quel problema un domani ci sarà, quando non ci sarò più io, non ci sarà più mia moglie, lui è già tranquilla, è tutto e per tutto. Ecco cosa intendo io. Io ho avuto sempre la piena fiducia in mia figlia, per cui non, sia io che mia moglie, ci mancherebbe altro, non abbiamo mai avuto di idee fasulle a riguardo. E per cui tutto quello che possediamo è tutto interessato a lui. Perciò, se puoi immaginare, ho già. E così ho pensato di fare, e così almeno quella è una cosa, intanto che prima o poi non lo dovevo fare, sicché io l'ho fatta adesso che sono ancora, non dico vecchio vecchio, però anziano abbastanza, e va bene così, dai. Ok, vai Massimiliano. Un secondo che sono in basso, eh? Idem ti dico Giulio, altrettanto ho fatto io, è stata la casa mia figlia. Beh già, d'altronde cosa deve fare? Cosa devi fare? Figurati. No, non è che sto lì a pensarci troppe volte. No, è una figlia. No, la mia famiglia è una famiglia a posto, tranquilla. Per cui no, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. È lo stesso discorso, ma anche vale per i miei fratelli, la mia famiglia in generale, compresa anche quelli che sono tutti i miei fratelli, altri sei fratelli, oltre a me ci sono sei fratelli, tra maschi e femmine, per cui si può immaginare, andiamo tutti d'accordo, la verità, questo, tutti quanti abbiamo la nostra posizione, tutti quanti abbiamo la nostra casa, tranquillamente, e stiamo andando così. Un mio fratello, uno ne ha figlio che è avvocato, quest'altro mio fratello che è un figlio che è giornalista, è a Bologna, l'hanno assunto in un giornale che non so nemmeno come si chiama, perlomeno non mi ricordo come si chiama questo giornale, nello stesso tempo sta continuando a studiare perché vuole avere un'altra laurea, eccetera eccetera. Gli altri miei nipoti, anche tanto tranquilli, tutti quanti hanno studiato alla grande, tutti quanti sono o impiegati o in un posto o nell'altro, lavorano tutti, per cui va bene così. Vabbè, cosa ci vuoi fare Gianni? Nel DNA della famiglia in generale, tutto lì, intendevo dire quello. Sì, uno ha anche la tranquillità, quando sa che sono tutti sistemati, ha anche la tranquillità di vederli crescere e tutto quanto. Quando invece vedi che non c'hanno lavoro, così ti prende l'ansia, ti prende male. No, l'ha capito Manuela, si è andata a fare, è venuta a partire a Bologna, adesso il ragazzo è partito per andare a trovarla, è andato a trovarla, presentato del curriculum, il ragazzo, l'hanno chiamato subito a lavorare, sta lavorando da andare. Certo, già lo credo, ma è così. E queste sono soddisfazioni, io la penso così, sono soddisfazioni per un genitore o per una madre, insomma, sono grandi soddisfazioni, vedere i propri figli sistemati in modo da non sapere che li lasci così, che va andati, sono tranquilli e pacifici, per cui va bene così, ripeto. e non fa solo la professoressa, ne fa le cose mia figlia, tanto per dire se ne elenco qualcuno così, intanto è il primo soprano, canta in un coro, il coro Rossini, fa la cronometrista, fa, no? Oltre a quello poi vai in palestra per fare attività. Cosa fa? Lavora per tutta la Sardegna, regione compresa, regione, province, comuni, tutti indistintamente. Lei la sua macchina presa, la sua macchina va, no, per esempio 70-80 mila chilometri, una cosa del genere, perché viaggia molto, perché si deve spostare da un po' dall'altro, ma insomma, va bene, diciamo che lavora abbastanza. E se no non è griglia, è la puttina d'aria. Così è. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, è grande, ormai ha 45 anni, per cui è una donna grande, non è una bambina, ma è già laureata a 20 anni, perciò anche di più di 20. E ha sempre lavorato, sempre. Ha lavorato alla forestale, ha lavorato al comune di Tinto, lavora per il comune di Sassa, per Perugia, per Oristano, per Nuoro, per Cagliari, per tutti i paesi di tutta la Sardegna. Insomma, va, se ha da fare. Una cosa è certa, non sta lì a piazzarsi i pollici in attesa. Lei si muove lì ogni anno e dunque lei è in grado di procurarsi il lavoro continuamente. Ok? È una donna attiva, dai. Sono, anzi, iperattiva. Io non so dove trovare tutto questo tempo di fare tutte queste cose. Comunque, ci sono le persone così e che non sanno stare un attimo fermo. Certo, tu pensa che era presidente, fino a poco tempo fa, era presidente dell'ordine, anche aveva la direzione di 600 iscritti. Guarda, 600 iscritti vogliono diciamo vogliono acquisti, non è poco, 600, ogni tanto deve andare fuori, deve andare anche perché per le cose, no? Con il corso nazionale eccetera eccetera, convegni tutti i giorni, quasi tutti i giorni si può dire, insomma, diciamo che conta, dai, conta, a questo punto conta già. Sai cos'è? Che quando uno si fa conoscere poi non c'è bisogno manco che vada lì, la cercano, capito? Ma allora ti sto dicendo, ha prestato il curriculum, quando hanno visto i punti che ha preso agli esami, che ha fatto 30 e 9, cosa facevi? Il professore ha detto questa frase, ha detto, Manuè, se ci fosse stato un voto più alto del 110 io te l'avrei dato. E cosa si può dire di te? Hai preso sempre il massimo dei punti tutti gli esami. Beh certo, guarda, io ti posso dire solo una cosa. Quando lei ha fatto la tesi della legge laurea, lì c'era il presidente dell'università, no, c'era, a un certo momento lì ha fatto la tesi, sai cosa gli ha detto il presidente? Guardi, perché il presidente dell'Inghia, no, tutti gli studenti laureati eccetera, io oggi da lì ho imparato molte cose, così gli ha risposto, ti giuro che gli ha detto così. E non mi sento in grado di fargli una domanda. Non so se i miei colleghi, perché c'era lì tutta una sfitta di professori, no? O da una parte e dall'altra del presidente, che li ascoltano per la tesi, per la laurea, allora, non so se c'è qualche collega qua che vuole fargli qualche domanda. Nessuno gli ha saputo fare una domanda, per dirti oggi. Gli ha zittiti tutti quanti, perché era un cosa che si dica, un fiume in piena facendo la tesi, per dirti no. Che ti puoi immaginare il voto quale può essere stato a quel punto, il massimo, no? È ovvio. E così è stato Manuela, addirittura il professore gli ha detto, il docente gli ha detto, Manuela respira ogni tanto, perché stava dicendo le cose una dopo l'altra, senza fermarsi un attimo. E tutto questo è documentato, perché ho il filmato, la registrazione, eccetera, eccetera, per dirti, no? Come stanno le cose, tempo già. Però, ripeto, è tranquilla, è pacifica, non ci sono problemi. Quello che conta è sempre la vita, poi a un certo punto è sempre la salute. Se Dio vuole, la salute l'accompagna, sono convinto che fino a quando sarà anziana, ma anziana sarà sempre una donna brillante, questo è io penso. Interessante pure, chiaramente, negli anni della vita non si sa mai, no? Però è fortunata anche della salute, posso garantire per quanto riguarda la sua capacità di intellettuale, ti posso garantire che sarà sempre all'apice della popolarità, sicuramente, conosciuta da tanti, tutti, chi è che me lo conosce? Tutti, cioè, avvocati, ingegneri, dottori, professionisti di qualunque genere, tutti conosci, mamma mia, quando io esco con lei qualche volta, così, ogni 100 metri, ciao, buongiorno, buonasera, mamma mia, ma quanta gente conosce, nella vita bisogna farsi conoscere anche, oltre alla qualità che uno ha nella sua professione, bisogna anche conoscere le persone, perché sono molto, ma molto, è molto importante, capisci? Così lei ragiona. Abbiamo accettato Massimiliano. Daniele, c'è qualcuno che vuole entrare su Dici? Noi abbiamo fatto questo momento di piano. E Giulio, io vedo molte cose che hanno affinità con tua figlia, mia figlia. Anche lei ha fatto scuola di canto, cantava con TVG, accompagnava le sfilate di moda, faceva spettacoli nei paesi, eccetera, eccetera. Mi è sempre piaciuto il canto ed è molto bravo anche a cantare. Guarda già, ti posso dire che ha girato tutta l'Italia, ha girato solo per il fatto di cantare, se puoi immaginare, forse che ha fatto della professione sua, eccetera, eccetera, no? Perché va a incontrare anche i presidenti nazionali del suo ramo, eccetera. No? Ha girato tutta l'Italia ha girato, dalla parte più bassa dell'Italia fino alla parte più alta, ogni tanto è in tournée col coro, per cantare, eccetera, eccetera, che ti puoi immaginare, e di queste cose qua, sto dicendo, è anche stanca di viaggiare, ed è sempre in aereo, capita, cosa vuoi dire? Ed è una cosa buona, che riesce a trovare il tempo tra lavoro e, diciamo, le sue passioni, capito? Riesce a organizzarsi bene, che già c'è molto lavoro, però allo stesso tempo riesce anche a fare le cose che vuole, è anche organizzata come persona, perché sennò quando uno lavora così tanto, chi ne ha voglia di andare in palestra, chi ne ha voglia di andare a cantare, c'è molta gente che si lascia andare così, non fa altro, invece lì vuol dire che ha la forza e la voglia di fare certe cose. Ma lei ha tutto, fa tutto, una voltica, pensa che ha anche il drone, quando gli serve, ha fatto il corso per poter, perché non è che lo puoi usare quello, il drone lo usa per professione lì, se l'ha comprato tutto quanto e quando le serve lo usa, per dire, no? Cos'è che l'ho fatto? Ma se ti sto dicendo, insomma, quando ogni tanto si trova un impegno nuovo, ogni tanto, lei non sa stare ferma, non sa stare senza essere sommersa di impegni. È fatta così, e appunto io tante volte mi chiedo, ma da dove toglie tutta questa vitalità, questa ragazza, tutto questo tempo, tra l'altro, soprattutto per poter fare tutte queste cose. Eppure è una grande organizzatrice di se stessa e riesce a raddrizzare a ogni impegno tranquillamente, senza nessuna difficoltà. Magari una sera arrivo, oh quanto sono stanca, e ero credo che sei stanca. Dopo che hai infatti io qualche volta dico, ma perché non vuoi qualche impegno? Oh, no, già ce la faccio, no, mi piace essere sempre impegnata così. E allora continua, cosa vuoi dire già? Infatti. no. Ma non si è sposata? No, non ne hanno voglia. Né lui né lì, non ne hanno voglia. Il fidanzato è anche lui è un laureato, ha tre lauree ed è farmacista. E per lui il tempo ne trova, sì, per tutte le cose che fa. Non ho capito già. Ho detto tempo da dedicare a lui ne trova, con tutte le cose che fa, mi sa che. sì, no, io per quello già ce ne trova, e ha voglia, tranquillamente. Poi lo parliamo di quante escursioni fa, mamma mia, tante escursioni che fa. Dai, sempre, quando è a casa, quando il tempo è brutto, non lo sopporta perché deve andare sempre a fare delle escursioni dappertutto, a tutte le parti. È carica di impegni, tranquillamente. No, ha trovato una persona veramente in gamba. È tranquilla, è un buon lavoratore, è una persona educatissima, educata, aspetta quando viene qua no, a casa, se deve prendere un bicchiere d'acqua, te lo chiede, ma non ti chiede, vai prenditelo, cosa vuoi da bere? Che te lo dia io? No, vabbè, non si permette mai, come certi ragazzi, certi uomini, quando entrano in una famiglia, lo sai, vanno lì, vogliono sapere tutto di tutto, e poi noi non nascondiamo niente, perché non abbiamo niente da nascondere, per dire, però ci sono quelli che si insuffano, vengono le faccende proprio anche private, oppure che aprono i cassetti, li continuiamo, poi se non si permette di una educazione estrema, Oggia. È un ragazzo ma veramente molto ma molto educato, veramente bravo. Abita vicino lì a dove abita Claudio, da quale parte di abita. Vabbè, io sono contento che anche il ragazzo Emanuele è bravo, come bravo ragazzo. Il problema è che non c'aveva lavoro qua, e quando è andato a trovare a lei ha presentato del curriculum, cosa ha aspettato? 4 giorni l'hanno chiamato a lavorare, hanno preso in prova, adesso gli hanno rinnovato il contratto e adesso il prossimo contratto glielo faranno fisso. Sì, no, lui già è fisso, lavora in farmacia, è farmacista, per cui si può immaginare, va bene. Vabbè, ha 3 lauree anche con la ragazza, 3 volte ha laureato, in tre cose diverse. È anche erborista, ha la laurea di erborista, la laurea del farmacista, e pure la laurea anche lettere, mi sembra, se ricordo bene, insomma, 3 lauree. E poi è anche uno sportivo, fa arti marziali, fa insegna anche, insomma già si riprendono, sì, già si sono trovati. E poi ha un po' la passione tua, l'hobby della fotografia, Oggia, perché anche lui ogni tanto va a fare delle escursioni, scatta e fa, e poi si riguardano tutti e due insieme nel computer, nel mito, eccetera, eccetera. Che si può immaginare. Insomma, hanno tutti e due il tipo di carattere uguale, io non credo che hanno la cosa, si capiscono con l'altro, fanno sport, fanno queste cose insieme, insomma. No, io ho diversi amici che fanno queste escursioni, fanno una piccata, e me l'hanno detto tante volte, perché non viene? Come faccio con questo piede così a fare arrampicata? Io sto scherzando, non posso mettere scarpe così grosse per arrampicare. E dice, ma almeno quando facciamo l'escursione non ce la facciamo anche a fare 2 passi giù, cosa faccio? Mi stanco subito, mi fa male il femore, come faccio 2 passi? Lui, molta gente non riesce a capirlo cosa vuol dire, se non le provi le cose, meglio che non si provi, no? Beh certo, no, ma te lo sto dicendo, per dirti qual è la forza di volontà che hanno queste persone, questi due ragazzi, per dire, no? No, ricorda quello, è tranquillo, sì, Giulia. E vabbè, comunque, la passione del canto soprattutto che abbiamo figlia, lì per il canto, e Giulia, ecco, lo sto dicendo, il primo soprano, per cui, va, infatti, va anche a fare le prove, no? Che si sa, perché quando, quando c'è tutto un colo, guarda che un colo, questi sono roba di 45 metri, non è un colo da niente, no? Dunque, perché si può immaginare, e quello è, vuole, vuole allenato, no? Bisogna che si esercita, è ovvio, no? Per dirti, no, è anche quello, il tempo lo trovo anche per quello, quando deve fare le lezioni di canto. Anzi, ogni tanto arriva anche qualcuno, o di questi maestri di musica, di canto, che arrivano da fuori, proprio l'altro giorno, l'altro giorno, tempo fa, da, quando è, tra 15 giorni fa, 20 giorni fa, al conservatorio che facevano le cose, come si chiama? Le prove di canto con questo professore a fuori, eccetera, eccetera. E d'altra parte il conservatorio qui a Santa, no? Veniva quello lì, è venuto al continente, tutto per dare una mano a tutto il coro, che ripeto è un coro abbastanza importante, voglia. Avanti, avanti, dai. Ecchime, ecchime. E allora, chi è rimasto? Io e Giulio, Massimiliano abbiamo chiamato e non risponde. Si sarà spostato un attimino. Cava, cava, cava. Bobo. Io mi lo stesso. Altri due passaggi che sono già alle 8. Daniele, stavo dicendo, alla fine, che baracchino hai? Questa è l'87 giù. L'ala 87, almeno così non prendo colpi né a destra né a sinistra. Ho capito, ho capito. Vabbè, già va bene, dai. Già va bene la niente, voglia. Però strano che stasera non si sia sentito, Gianni non perfetta. Si vede che ha trovato meglio, qualcosa di meglio da fare stasera. C'è qualcuno che voleva entrare, avanti, chi è? Oggi tutti giù cazzati, so. Dai, Gianluca, tanto lui. Noi accettiamo lo stesso anche chi ha voglia di giocare, solo quello non ce ne so, figurati. Va bene, vai Gianni. Un altro passaggino Giulio e poi, ok, io chiudo, devo portare giù il scasso, già le 8. Mentre in ascensore. Lo so, anch'io non è che mi trattengo molto, anch'io qualche passaggino ancora così, e poi scendo giù. Per incominciare a scaldare i fornelli, ma non li scaldo io, li scalda mia moglie. vabbè, avanti Daniele. Scappa il rosmetro, va bene. Buona questa modulazione, sì. Sì, già va bene, mia moglie. Va bene. Scappa, giù però poi io sono assentato, mi hai detto cos'era quell'amplificatore che stavi usando per l'audio. Io lo sto usando adesso, anche adesso lo sto usando, in questo momento. Perché è una scatoletta 4,90, sarà 8 cm per 8x7, per 3, più o meno. La scatoletta è un amplificatore telefonico, però si può utilizzare anche per il baracchino, si può utilizzare per la radio, per la televisione, molto di piano, funziona dappertutto. Si ricarica perché è una batteria, si ricarica con l'alimentatore del telefonino stesso, si ricarica. È un fan ascolta, come si dice, un viva voce del telefonino, costa una miseria, davvero 90, una cosa da 4 soldi, non niente in particolare, ma funziona bene, devo dire che ti fa la cassa esterna anche del baracchino. Scappa, e dove è stata acquistata? Città Mercato, all'ingresso, quando entri all'ingresso di Città Mercato c'era un espositore che ti veniva di fronte, c'era questo affare qua, in offerta era 9,90 €, si può immaginare, 9,90 € centesimi. Mia figlia l'ha comprato, io l'ho visto, da lui, e prendi, mi ha detto, no, lo volevo solo provare, no, ma prendi, se lo prendi, tanto me lo faccio, l'ho preso così, e dunque me lo sono preso, ecco, tutto lì. Poi funziona comunque anche in macchina, se voglio utilizzarlo per il telefonino in macchina anziché avere la voce dal telefono, ho attacco quello e ascolto i vivo voci. Cava, va bene, perché io sono già mezzo sordo, devo sentire l'audio alla perfezione. Sì, va bene, ecco, devo dire. Vabbè, ti ho fatto l'interrogativo, metto se funziona con Bluetooth oppure se si attacca lo spinotto col filo. Sì, funziona con Bluetooth, certo. C'è un cavetto, tu non fai altro che collegare il telefonino a questo amplificatore. Dunque, quando c'è un interruttore che si accende, è una cosa da niente. Per cui se vuoi ti mando la fotografia, mi do un problema di testo per vederlo. E devo dire che amplifica molto. Se tu pensa che io la rotta lo uso anche per la televisione, ho messo un filo più lungo, me lo metto sotto il cuscino per non disturbare mia moglie e appunto ascolto. Tu pensa che di solito quando lo ascolto solo direttamente dalla televisione con una cuffia normalissima, il volume lo devo mettere anche a 20, lo devo mettere perché arrivo anche a 100 questo televisore. E invece con questo amplificatore lo metto a 1 e lo sento benissimo, avendocelo sotto cuscino tranquillamente ho già. Ho capito, vabbè, già è utile, dai. Chi è che ha fischiato? Va. Buonasera, ciao Gian, un potici al 20 per cortesia. Gianni ha mollato evidentemente per il telefono, ciao Tino. Vici. Oh ciao, buonasera a tutti, una cosa veloce a Gianni sul 20. Ah ok, ho capito, sì, allora si è già spostato, buon consiglio sul 20 allora, dai. Abbatti Daniel. Ehi, ciao Tino, ben sentito, dai. Così, Daniel. Se vuoi se mando la fotografia da lì, non ho capito, cosa giù? Ho detto che se vuoi ti mando la fotografia di questo amplificatorino. Ehi, mandami la foto, sono curioso. Ok, dai, lasciami il tempo di scattare la foto e dopodiché te lo invio, ok? Ehi, anche dopo lì con calma, intanto sto per chiudere giù, non c'è problema. Ah, va bene, uguale, allora dopo, dai, dopo che quando chiudo e poi caso mai te ne sono, ma tanto non è che mi trattengo molto, adesso sono già le 8:05 circa, le 8:04, la storia da te. Intanto, sto aspettando anche la chiamata, penso un po' che prima o poi arrivo, perché di solito noi ci andiamo verso quest'ora, dai. Poi un po' di televisione, un po' di io guardo un po' di sport, eccetera, eccetera. E poi a nanna, però non dormo mai prima della mezzanotte almeno, alle volte anche le due faccio prima di dormire, si può immaginare. Oppure mi metto a chattare con mio fratello, a su WhatsApp, eccetera, eccetera, con mio fratello, mia sorella, anche quello faccio, e d'altronde, e così faccio al tempo. Tutto vuole fatto giù, va bene, almeno così non ti annoi. Infatti, magari il messaggio vocale stesso vuol dire, alle volte scritti anche, i messaggi scritti, però noi siamo sempre contatto, dai, tutti i giorni ci sentiamo, no? Questo è garantito. Noi siamo così, io Daniele. Se vuoi mantenere il rapporto, soprattutto con i tuoi familiari, deve essere così, sentirsi continuamente, invece considerate che andiamo abbastanza d'accordo, per cui no, vabbè, i nostri genitori ormai sono molti, tutti e due, però fra di noi, tra fratelli e sorelle, già ci sentiamo. Meglio giù, meglio. Va bene, dai, io ne approfitto giù che ti lascio che qua è quasi pronto. Ti ascoltiamo domani se coincidio alle prossimine. Ok, ciao Daniele, allora alle prossime, dai, dopo ti mando, anche adesso subito te lo mando quella fotografia di quella farina. Poi già questo lì non ha niente, quella scatoletta, però diciamo che funziona, funziona, anche perché è amplificata, ecco tutto lì. Va bene, ciao Daniele, alle prossime, ciao, a domani. Ok Giulio, va bene, non c'è problema. Dai, cordialità, aspetta la rimane alle prossime, giù, dai, buon proseguimento e buon tutto. Ok, ciao di nuovo, grazie, si è cambiato tutto, grazie anche per il questo, ciao Daniele, ciao, a domani. Ciao, va là, va là, ciao giù, ciao ciao. Ciao Giulio. Ci vedo tutti andati. No, vabbè. È così, dai, credo sono una prova di comparazione, se andava bene o meno. Spandami un segnale di radio, perché mi stanno dicendo tutti che sto scendendo un basso di radio, va bene? Non posso fare queste prove se non c'è un altro che modulo, almeno due. Perché avrete tra te e lui, lui è più alto o meno. Io adesso ho alzato il volume per parlare solo con te. Sì, vabbè, ma si sente se uno esce basso. Aiuto. Per me vai benissimo. Probabilmente quando ti allontani da questo microfono ti dà un effetto di lontananza. Non è come certi microfoni che anche da lontano, tipo l'MC60, ci può parlare tranquillamente da lontano e si sente bene. Questo deve essere più vicino per rendere. Andavetti. Poi sei battagliando con questi lineari. No, vabbè, sto cercando di valutare di mettere uno per ogni radio, visto che ce li ho, me ne pregano solo a spostare, a fare e così via. Adesso lascio questo qua, va bene. Cappa cappa, vabbè. Vabbè, dai, io ti lascio che devo andare a portare giù il cane, già tardi, stavo per salutare a loro quando tu mi hai chiamato. Stavo per salutare. Oh, yeah. Andare, non mangio vicino alla gara, ma comunque devo scendere, lo porto qui giù a pascolare e poi prendo il risalto. Ciao Tino, dai, buona serata, buon tutto, alle prossimine. D'accordo, ciao, grazie ancora. Chi è che fruscia? Eh beh, Gianni. Ciao Luca, ben sentito, buonasera. Allora, aspettando. Bella radio, bel segnale, sicuramente non stai adoperando l'altra questione dell'altro giorno. No, sono a casa adesso, no, qua è a posto, dai. Qua è a posto. Ogni tanto manca la batteria in questo microfono. No, è qua, è... come detto, c'è un'antenna grande. Va benissimo. Caparosmetro. Ma senti un po', ma giusto che per curiosità personale, poi giustamente sei tu a decidere se rispondermi o meno, ma che antenna stai usando in quella tua situazione? E là da giù? Capa Roger. La Stormo 27. Ma cos'è, una portata o una fissa? Dicono che è un'antenna da camper, comunque va bene anche per casa. Capa. Perché vabbè, io ho ascoltato appena la modulazione di quella situazione lì, era veramente inascoltabile, dai. Vedi tu, ho stazionaria a 3. Capa, ma cos'è, i problemi di saldature, di falsi contatti, di massa a terra, boh. Ho capito, scusa, sto ascoltando la massaggio della mia 25, ripeti? No, stavo dicendo, ma il problema è cos'è? Un problema di massa? Un problema di falsi contatti o di che natura? Insomma, qual è il problema di tutte queste stazionarie? Allora, con l'antenna lì è piazzata in uno stenditoio di un terrazzo, cioè nel proprio nel braccio dello stenditoio, l'ho messa lì a golfo di ferro, Poi davanti a un albero, sicuramente è dovuto a quello, boh. Kappa, ma hai controllato, tipo, vabbè, non ti voglio, non sono qua, non devo insegnare niente a nessuno, però hai controllato PL, le connessioni del cavo, se c'è qualche, se il cavo è pestato, schiacciato, oppure c'è qualche problema da qualche parte. Ah, controllando tutto, PL a posto, testato con il test, non è in corto, va bene, a posto, no, lo so, secondo me è per l'albero, boh. Non ne ho idea. Tanto, dai, ma sia, ma anche con la PLC 1000, sia con la calamita che piazzata fissa, quanto il buco nel coso della ringhiera, raschiata e tutto, nuda, sempre a tre. Roger. È strano, vabbè, che tra virgolette chiamiamolo il muro dell'ostacolo dell'albero ti faccia un problema del genere, ma toglimi una curiosità, l'attacco dell'antenna com'è, a PL o c'è un altro tipo di collegamento? No, il muro sono distante, c'è l'altro davanti. Kappa, insomma l'antenna è imbottigliata in sostanza, dai. Sì, perché il cavo è taratto, in base al cavo che metti, adesso 11 metri un esempio, no? Oppure 13 metri, facciamo un esempio, in base a quell'antenna lì ci vuole il metraggio del cavo, io l'ho messo giusto. Sì, ti ho capito, ho capito cosa ti stai riferendo. Perché è strano, mi hai detto anche che con quella calamittata mi hai detto che ti dà più o meno lo stesso problema. Sì, calamittata è fissa. Ho capito. Cazzo. Perché ho notato questo, che vabbè, giustamente con le condizioni in cui sei, chiaramente aumentando la modulazione, giustamente modificando la radio, aumentando il tono di voce, chiaramente quello che esce diventa incomprensibile. Perché l'ho provato qua e va bene, mi sono anche ascoltato e va, no, bene, benissimo. Solo che quando aumenti di watt, le stazioni, allora, normale sono a 2,5, 2,7, se lo metto, lo metto di watt a un tastino, da high a low, love, ti cazzo di svizzi, in inglese, praticamente fa, cioè esce male. Ho capito. Sembra che ci sia una strozzatura da qualche parte, capito? E quindi di conseguenza all'ascolto la radio risulta satura e fuori frequenza quando non sei allineato, capito? Va, va bene, perché l'ho provata già, va benissimo. No, vabbè, no, già c'ero anch'io quando avevi fatto la prova. C'ero anch'io quando hai fatto la prova dell'altro apparato su questa antenna, quindi ero presente. No, mi riferisco al fatto che nell'altra situazione praticamente sembra che ci sia qualcosa, una sorta di imbuto, qualche ostacolo che ti impedisca di uscire bene. Magari metterla sul tetto le cose cambiano, non lo so. Però sul tetto purtroppo non ci posso salire, a parte che lo so comare a casa mia, poi no. È meglio che sia una cosa da smontare subito, poi ci stai lì, poi del tempo sei sul tetto, perché sai, può capitare un bisticcio, io diciamo che ho un carattere di merda, ecco, proprio detto pappale, è meglio che sia una cosa lì, visibile, smontarla subito, portarla via subito. Kappa, perdonami, c'era entrata gente qua in camera che mi stava parlando e quindi mi sono perso metà del discorso, vabbè. Ho detto, è meglio che rimanga lì, c'è una cosa da smontare subito, invece di stare lì sul tetto, boom, bam, perché purtroppo non accoppia bisticci spesso e volentieri, no? Capisci a me? Ok, perfetto. Va bene. Stavo per dire una cosa, adesso mi sfugge, nel frattempo sto cercando di arrotolarmi una sigaretta. sì, comprendo. Più che altro a livello proprio di curiosità personale mi stavo immaginando la situazione, quindi stavo pensando proprio, mi stavo facendo un viaggio mio tutto personale, cioè della serie, di riuscire a capire insomma più o meno qual era l'intoppo mi. Vabbè, guarda, dovrebbe venire Massimiliano, fargli un'occhiata, ma il capo l'ho tratto giusto a... perché ci sono varie misure in base a quell'antenna, no? Con la bielà stomaco 27. In base al metraggio ti calano, no? Un po' ci ho messo un calate, perché ho oltre i 3 di stazionaria, non riuscivo a buttarle giù. Poi c'ho questa magnetica, non so se dipenderà dal capo, ma il capo è buono, perché l'ho piazzato, perfetto, va bene. Addirittura gli ho messo anche sotto quell'adesivo, no? Per non graffiare la capota, vabbè, non lo devo mettere in macchina, è una fucina di mulli in macchina. Giusto per tenerlo protetto, magari quando piove, capito? Ma niente, non riesco a buttarla giù, tagliata. Lo stilo è stato tagliato anche, perché di solito si taglia per farla scendere di coso, nulla, non anda. Ok. Ho capito. Guarda, sicuramente come in tutte le cose c'è, come capita, no? Che magari stai cercando un oggetto o qualcosa che, cazzo, butti una gira a gas, la metti sotto sopra, la giri come un calzino e magari la soluzione, cioè magari quello che stai cercando ce l'hai davanti agli occhi, però sei talmente concentrato a pensare nei posti più assurdi che magari non avevi, come mi è capitato sia per le chiavi, per gli accendini, per cose diverse. È probabile che magari ci sia qualcosa che è abbastanza evidente, che però magari, sto facendo un esempio, non sto dicendo che è così, magari c'è qualcosa di abbastanza evidente, di abbastanza semplice, che però magari sfugge. È sempre un esempio che sto facendo, non sto dicendo che sia così, attenzione. Sì, beh, certo. Vabbè, purtroppo questa frequenza è un casino. Io penso che qua siano ancora 1 e 1, e l'antenna è piazzata tanti anni, 10 anni, boh. Avevo piazzata Claudio con Franco, con Mario Manse, c'era il giorno, c'era anche il vento. Niente. Quando piove salgono a 1 e 2, 1 e 3, ma chi se ne frega, vanno bene. Diciamo che qua proprio non ne ho più avuto, ecco, dai. Il capo è quello grosso, quello doppia calza, quello bello, quello buono, eh. Ho capito. Ci sono, saltano fuori questi misteri, queste cose, questi imbulichi, che spesso e volentieri diventano dei rompicapo, e quindi capisco più o meno la situazione, cioè più o meno mi immagino la situazione. Vabbè, io ho notato che l'antenna che ho messo, la Ringo, che ha queste sue caratteristiche, che quando prende umidità praticamente le stazionarie volano. Adesso oggi, vabbè, era una bella giornata, insomma, leggero vento, quindi ha avuto modo di asciugarsi. Infatti ho notato che le stazionarie sono scese rispetto a ieri, avanti ieri, che ce l'aveva 1,5 e 1,7, adesso sono ai 1,1 circa, e quindi mi immagino più o meno la situazione che stai attraversando tu. Mi. No, va, ripeto, quando piove mi salgono, ma non più di tanto, ma è normale, faccio essere una cosa normale. Poi è capitato qualche mese fa che quello che capita sopra di me, siccome era un televisore non di marca, no? Televisore di quelli sotto marca, e ha comprato questo sub piccolino, sai, quel sub della... ha preso un baratto, con quello meno costoso. Beh, mi sentivo col baracchino. Allora cosa ho dovuto fare? Gli ho dovuto dare uno dei miei, bello massiccio, gli ho attaccato, abbiamo fatto le prove, perfetto. Però non voglio avere, infatti non stavo manco modulando, perché sentivo una merda dentro queste casse. Infatti qua poche niente, di tu cavolo, prima ho televisore a guida, va a guida, entra rigassi di tu sub, questi da 13, perché sono alla fine, non sono manco schermati né niente, ma no, comunque abbiamo risolto, dai. Kappa, ma perdonami, ma Questo disturbo nel sub lo si creava nella situazione quella particolare con l'antenna, con le stazionali, o nella situazione dove sei in questo momento? No, qua a casa di mamma, no? Qua al monte. No, io sono tranquillo, non c'ho niente di nulla, tutto ok qua, vabbè, microfono amplificato, la radio dash o no, 10 watt, 8 watt, se non mi ricordo. Del resto tutto ok, non ho amplificato né niente. Purtroppo non è una cassa schermata, sai com'è, no? Eia. No, infatti, vabbè, ti ho chiesto ulteriori informazioni giusto per capire se il problema è riferito a quell'altra situazione con l'antenna accrocchiata rispetto a quella che stai usando adesso. Sì, vabbè, io anni fa mi ricordo c'era la buonanima di un mio amico che aveva CB, aveva il baracchino con lineare in via La Marmora. Praticamente io andavo a trovare questo altro mio amico che abitava sempre via La Marmora, ma nella parte più bassa, quasi all'incrocio di via Rosello. E praticamente quando Giovanni, la buonanima, attaccava il lineare, praticamente si sentiva Giovanni modulare attraverso le casse di un organo, e questo organo era spento. E quando attaccava la badetta, praticamente si sentiva la voce di Giovanni pulita, pulita, pulita, pulita. Scusa, sto mangiando, ho fame. Purtroppo, quando non ha... Allora, tu conta, noi qua siamo 20 famiglie, no? Come ti ho detto, io abito su al monte, nelle casette in Canada, non ho problemi a dirlo. Vicino alla numero 9. Sono 20 famiglie disturbavo, ma ti parlo quando era analogico, non adesso. Disturbavo solo una persona. E purtroppo ho avuto delle battaglie, infatti poi ho deciso di staccarne tutto e vendermi tutto. E poi con il passare degli anni ho deciso di ripiazzare tutto. E infatti così ho fatto. Grazie a Dio, da quando è passato in digitale terrestre, cioè in digitale, là, non digitale terrestre, vabbè, a posto, non ho avuto più questi problemi. L'ultimo problema che ho avuto è quello che ti ho detto prima. Capisco. Sì, vabbè, adesso chiaramente lì entra qualche armonica in bassa frequenza e si infiltra lì dentro, e poi giustamente l'amplificatore l'amplifica. Guarda, l'unico rischio di TVI, chiaramente sto parlando di radio normali, radio omologate, radio comfort, insomma, non troppo spinti, è chi ha ancora il classico televisore a tubo cattolico con il decoder esterno. E quindi i disturbi non entrano tanto dentro il ricevitore digitale. I disturbi entrano dall'uscita del digitale terrestre dentro il televisore, tutto il sistema di oscillazione, oscillatore che ha il televisore, e quindi attraverso il vecchio televisore lo senti. Però col digitale terrestre praticamente stiamo parlando di un'altra parrocchia, non c'entra proprio niente. Quindi i disturbi che si possono creare sono a livello proprio di bassa frequenza, cioè di amplificazione in audio, o chi ha ancora vecchi televisori con il decoder esterno agganciato. Sì, non so se questi televisori a tubo cattolico con il decoder esterno, se il baracchino disturba, ma mi sa di no. Il problema si è ridotto parecchio. L'unico inconveniente che potrebbe capitare è che proprio per quelli che ancora sono rimasti con questo sistema, cioè col televisore a tubo cattolico e il decoder esterno con la SCART, potrebbe succedere che si possa creare una situazione simile, capito? Cioè che praticamente alcune spurie, ma stiamo parlando magari di radio brutta o di radio che sta sparando un sacco di watt, però dico con 5 watt con un baracchino classico normale omologato, secondo me oggi, al giorno d'oggi, problemi non ce ne sono. Infatti, dai, io anche a casa disturbavo, casa mia, quando andavo sul 45 a fare di ex, lì, vabbè, propagazione, diciamo, su Sicilia, Triche Ballacche, entravo sulla Rai, uscivano le righe. Poi sai, poi ti stufi, perché dici già avrei già metti di balle oggi, già avrei già metti di balle domani, e poi ti basta la gana. Beh, finché va, che non ho problemi io, che se no guarda, quindi ne sacco tutto. Ho capito. Sì, vabbè. Ma come più o meno si faceva anche allora, cioè si ragiona per multipli e sottomultipli, poi chiaramente il canale che era più vulnerabile era il primo, mi ricordo quando la TV era ancora analogica, il canale più vulnerabile era il primo. Esatto, la Rai. Sì, proprio perché era basso di frequenza, quindi arrivavano le spurie, le armoniche, ti entravano direttamente dentro il televisore, capito? E quindi sentivi, a parte i disturbi video, ma sentivi molte volte, soprattutto se eri vicino a qualcuno, sentivi molte volte la voce attraverso l'altoparlante. Non so, poi nella casa del computer entravo, adesso non mi ricordo, ma sai che è capitato che entravo anche nel mio portatile, quando piove però, mi sentivo parlare dentro le cuffie quelle cuffie a cerchietto, no? Ho tenuto una scheda esterna, cioè una scheda USB, quella che fa gli effetti, no? Che cambia le vocine, è buona come scheda, è della Creative. E mi sentivo, quando piove, infatti mi sento un po', si sente anche il beep si sente molto. Ho capito, ma stiamo parlando di radio normale o con l'aiutino attaccato? Questo baracchino qua, io ho il iPhone, quello non è omologato il mio, e ti ho detto che dagli 8 e 10 watt, se non mi ricordo esattamente, senza aiutino normale, liscio. Sicuramente proprio per via di quel fatto lì, magari è un po' più aperto, un po' più libero rispetto a quelli omologati, allora di conseguenza magari tipo può creare problemi di questo genere. Lo so, secondo me come piove, magari si bagna, vabbè, la tela è bagnata, perché sai che è bagnata, ma rimanda spurie, ma si bagna anche dove c'è la centralina dei cavi, tra, diciamo, dell'internet, non lo so, rientra nella scheda, non lo so già, ma in materia sono ignorante. Sicuramente sì, perché proprio col digitale non c'entra assolutamente nulla. Sicuramente entra nella parte di bassa frequenza, cioè nello stadio proprio analogico, non tanto nel digitale, perché proprio non c'entra niente. Va a interferire con lo stadio analogico della scheda o di Garcia Gosa. Quindi chiaramente qualche spuria, qualche armonica praticamente va a finire lì in mezzo, e l'amplificatore non ha fatto che amplificarla e l'ha fatta sentire. Lo so, forse per quello. Aspetta 2 secondi già, che vado a fare la puntura a mamma. Vai, non c'è problema, dai, sono qua in quel Rix. Sì. Avanti tu. Dai, io chiudo, sono un po' stanco, sono dalle 3 stamattina, ho anche, diciamo, lavorato. Sono andato prima a farmi un po' di lumache, poi a fare dei lavori, e sinceramente sono un po' stanco, dai. Adesso mi riposo, ho riposato stasera un'oretta, ma su quel cracco. Figurati, ci mancherebbe altro. no problem, no problem, non ci sono problemi, figurati, vai a riposare tranquillo, sereno. Dai, ci si ascolta un altro momento, ok, dai, buona serata e buonanotte, dai, alle prossime, ciao Lu. Ma tu ci sei su Facebook, quello già? KK, ci sono. Mandami l'amicizia, no? Luca Pondi, che guarda che c'ho una foto con la maglietta rossa e pantaloni blu, se ti fa piacere. K Roger, sì, appena ho modo di collegarmi, vabbè, già per tutta una serie di motivi c'entra poco, vabbè, appena c'entro, dai, ci butto uno sguardo e volentieri, d'accordo? È diventato ogni tanto un pubblico, come si dice, le foto anche davanti delle antenne, capito? Quando vuoi, ripeto, c'ho un paio di occhiali da sole, un golfo sulle spalle con una maglietta rossa, dai, un pantalone blu. Dai, ciao già, buonanotte, a domani se coincide. Capa Roger, ok, dai, tranquillo e sereno, no, ci si ascolta quando capita, d'accordo, dai, buona serata e tante cose belle, ok, alla prossima. Via, ciao.